Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Nessuno dei nostri governanti, sia gli attuali che quelli che li hanno preceduti, ha dimostrato di avere fatto tutto il possibile per fermare il flusso migratorio laddove si crea. Non è possibile risolvere il problema dell'immigrazione solo creando centri di accoglienza. Se è vero che facciamo parte di una cosa chiamata CEE, ed essendo la nostra una regione di confine della CEE, il problema dovrebbe essere portato a livello europeo, se non addirittura a livello ONU, visto che questo flusso di persone riguarda decine e decine di nazioni. Di certo, l'Italia da sola non riuscirà a fare un bel niente in questo senso. Molto di più invece si potrebbe fare su immigrazioni come quella dei rumeni. Sono completamente d'accordo sul fatto che ultimamente ci sia un flusso di persone rumene non proprio irreprensibili, che preferiscono l'Italia ad altri paesi europei proprio per il fatto che qui godono di una maggiore impunità. Questo è il livello di considerazione di cui gode attualmente il nostro sistema giudiziario. Quindi sono favorevole ad un inasprimento delle norme sui reati alla persona e auspico finalmente una riforma del sistema giudiziario che riesca a mostrare a tutti i cittadini che i reati commessi vengono realmente puniti e le pene realmente scontate. Naturalmente vorrei che i cittadini non italiani venissero mandati nei propri paesi di provenienza a scontare le condanne. Stefano, provincia di Pisa. Reputo il decreto sicurezza e le ronde un'ottima cosa. Meglio fare che parlare. L'opposizione potrà anche eccepire in parte o su tutto. Il non fare nulla è comunque peggio. Questa iniziativa la vedo come un'opportunità per i cittadini di avere un proprio diretto coinvolgimento al senso civico. Perché non si obietta che il 118 e la Croce Rossa sono associazioni di volontariato inutili? Associazioni come la Croce Bianca o la Misericordia esistono e operano nel medesimo settore della Croce Rossa. Non è forse lodevole? Lo stesso dicasi per i volontari dei Vigili del Fuoco. E allora, perché mai dovrebbero essere demonizzate queste ronde, che io definirei meglio gruppi di desistenza? Si potrebbe obiettare che ci sono le forze di polizia e che sarebbe meglio potenziare quelle che istituirne di nuove. Mi chiedo però che male ci sia a dar loro una mano nel presidiare con carta, penna e telefono stazioni della metropolitana o zone di spaccio e di devianza. John Kennedy disse: «Non chiedete cosa può l'America fare per voi, ma piuttosto cosa voi potete fare per l'America». Frase tra l'altro ripetuta dall'amico Walter Veltroni. Se sostituiamo America con nazione, il pensiero è attuale e non fa una grinza. Ecco, dei liberi cittadini cercano di fare qualcosa per la loro nazione. Che male ci potrà mai essere? Anzi, non potrebbe essere un momento di condivisione di appartenenza, amore del territorio contro il degrado? Vedere questo progetto solo come un'idea bislacca, partorita da una destra becera, forzanovista, dura, antagonista, razzista? Trovo che sia sbagliato e fuorviante. Piero, Milano. Egregio direttore, mi è capitato l'altra mattina di sentire la lettura di una lettera inviata da un ascoltatore siciliano sul tema delle ronde. L'autore sosteneva che le ronde non dovevano essere disarmate. Anzi, ha dichiarato di essere pronto a prendere la mazza ferrata per punire i malcapitati colpevoli. Essendo l'ascoltatore di Palermo, mentre ascoltavo mi è venuto spontaneo immaginarlo mentre organizza o partecipa a ronde armate nei confronti dei vari esattori del pizzo. Quando questa legge verrà approvata e verranno risolte le emergenze dei rumeni, albanesi, tunisini, marocchini, nonché di tutte le immigrate costrette a prostituirsi, forse si potrà finalmente fare qualcosa anche per combattere la criminalità organizzata. Ma dato che questa iniziativa non porterà molti voti, forse sarà difficile organizzare una campagna mediatica adeguata, come avviene invece per altre emergenze. Riccardo. Pur essendo vicino al centrodestra, penso che il termine ronde sia un errore fatto dalla destra, che favorisce chi cerca ogni pretesto per alzare un polverone e tenere con la minaccia del fascismo e della difesa della Costituzione repubblicana i tanti elettori di sinistra in fuga. Bastava prendere come esempio la Gran Bretagna o gli Stati Uniti, paesi dei quali tutto si può dire, ma non che siano fascisti. In questi paesi esiste il neighbor watching, deciso a livello di singole comunità di villette, e che si avvale di un sistema provato con il quale si garantisce una sicurezza estrema, non solo delle persone, ma anche delle cose. Ovviamente, vi deve essere l'intervento pronto delle forze dell'ordine per fare rispettare le regole in caso di necessità, cosa che talvolta manca, soprattutto nelle ore notturne. E ci vogliono regole serie, che prevedano multe o contributi alle spese nel caso i volontari, per 2 o 3 volte di seguito, lancino falsi allarmi. Si evitano così appesantimenti con ulteriori apparati e burocrazie. Inoltre, il sistema è democratico e viene deciso a maggioranza a livello di quartiere. Francesco. Egregio direttore, sono un cittadino rumeno, residente in Italia da 13 anni, sposato e con 2 bambini, entrambi nati in Italia. Voglio esprimere il mio profondo rammarico e la mia indignazione per i fatti commessi da qualche delinquente che si dichiara cittadino rumeno. Voglio fare presente che le ansie e le preoccupazioni di tutti i genitori le abbiamo anche noi stranieri. Anche noi, che andiamo a lavorare dalla mattina alla sera, abbiamo subito furti nelle abitazioni. Ci hanno rigato le macchine. Hanno messo dei bigliettini con insulti sotto il tergicristallo delle nostre auto. Però abbiamo sempre saputo distinguere tra gli esaltati e gli altri italiani. Perché al mio arrivo in Italia, 13 anni fa, quello che ho sentito è stata la solidarietà da parte di un contadino veneto del Padovano. E quello che lui mi ha fatto vedere sono stati l'affetto, la bontà, l'altruismo. Per me tutte queste cose resteranno come un simbolo di quello che è il popolo italiano, nella sua genuinità, nella sua distanza dai pregiudizi politici. Ho incontrato diversi datori di lavoro, alcuni onesti, altri meno. Ho avuto colleghi che mi hanno trattato come uno di loro e altri che non lo hanno fatto, ma ho sempre saputo distinguere. Adesso mi domando, perché questa campagna di odio contro i rumeni? A cosa serve? Non si può infangare un popolo intero per colpa di una minuscola minoranza che non è rappresentativa per noi. Il mio dolore viene dal fatto che i mass media non tengono conto dei fatti di cronaca in cui sono i rumeni a subire violenze e ingiustizie. Quanti sono i rumeni costretti ad accettare contratti di lavoro fai da te, senza nessuna legalità? E quanti sono quelli che vanno a raccogliere pomodori per 3 euro l'ora? Dove sono i responsabili quando si muore in un cantiere? A cosa serve tutta questa campagna folle contro di noi? Ho sentito i dati riguardanti gli stupri nel 2008. Il 66% sono stati fatti dagli italiani, il 7,2% dai rumeni, il 6,9% dai marocchini. Non mi sembra però che contro i marocchini sia stata fatta una campagna mediatica altrettanto feroce. È giusto differenziare uno stupro in base alla nazionalità di chi lo commette? Christian, provincia di Padova. Qualcuno forse si consola con il fatto che, secondo i dati del Viminale, il 60% degli stupri venga commesso da italiani e solo il 7% da rumeni. Un piccolo particolare. Gli italiani sono 55 milioni, i rumeni 1 milione. Ognuno faccia le debite proporzioni. Guglielmo. Ho ascoltato la lettera della giovane laureata che trova solo lavori da stagista sottopagati o non pagati, alla stregua del lavoro servile. La sua lettera è il motivo principale per cui non credo nella politica, soprattutto alla politica che chiede i voti sostenendo di lavorare per il popolo e non ad personam. Questa è la dimostrazione pratica che il principale sostenitore del sistema è la forza economica. Secondo me esiste un'alternativa ai vari co-co-co, o come ora si chiamano, e interinali, soprattutto le cooperative per il prestito di manodopera, dove, non pagando tasse, offrono personale a un prezzo ancora più basso. Tutti coloro che vengono assunti non a tempo indeterminato dovrebbero essere pagati a livello di un libero professionista. In 4 o 5 mesi di lavoro dovrebbero ottenere lo stesso stipendio annuo di chi ha un contratto a tempo indeterminato. Questo perché tutti dobbiamo vivere. Tutti dobbiamo avere una dignità. E ci deve essere la convenienza per l'assunzione a tempo indeterminato. Il tempo del praticantato, per me, è finito. Nel giro di pochi giorni, massimo 1 mese, il ragazzo impara la professione. Certo, non come un senior, ma in modo sufficiente per essere produttivo. Ricordo che per lavori particolari si assumono laureati che hanno un ottimo bagaglio teorico. L'unico settore dove il praticantato richiede più tempo è quello dell'artigiano, muratore, idraulico, sarto, calzolaio, antiquario, eccetera. Ma anche per quelle professioni esiste il metodo per rendere il neoassunto subito produttivo. Si inizia sempre con lavori semplici, che comunque qualcuno deve fare. Stefano. Caro direttore, non posso pensare che lei, come tanti altri, credesse veramente che Obama potesse rappresentare la soluzione ai problemi e stravolgere il mondo. Ma costui che esperienza ha? Che garanzia di democrazia mi dà? Quali esperienze di vita può avere uno di 40 anni? Va bene che abbiamo bisogno di giovani, abbiamo bisogno di freschezza, abbiamo bisogno di dare smalto al mondo in generale, ma uno di 40 anni non mi dà fiducia. Troppo impegnato a guardarsi allo specchio. Ora si trova invischiato in un qualche cosa di molto più grande di ciò che lui è in grado di fare. Certo è che, essendo i primi responsabili di questa crisi, insieme alla borsa, dovrebbero essere loro a fornirci la ricetta magica per uscirne. Ma penso che questo presidente, vista la sua tendenza ad isolarsi con la Cina, non andrà molto lontano. Già uno che dice che gli investimenti nella cultura sono soldi sprecati la dice lunga sulla propria di cultura, che è molto diverso dal tagliare i fondi per le scuole, che non vanno a premiare quelli che producono. Dobbiamo essere in grado, noi europei, di essere autonomi e non dipendere sempre dall'America. È possibile farlo, basta volerlo tutti insieme. Isa. Dicono che Darwin sia stato un grande naturalista. Sarà vero? Con i suoi studi e le tante osservazioni dal vivo è davvero riuscito ad illuminare l'umanità? A spiegare che forse il cammello ha una gobba in più del dromedario perché gli ingegneri della ditta Natura hanno perfezionato quel mezzo di locomozione con un optional più consono alle esigenze del fondoschiena del beduino che lo cavalcava? E tutti quegli zoologi, entomologi e antropologi che hanno speso il loro tempo in foreste, praterie, deserti e ghiacciai per capire come mai gli uccelli volano, i pesci nuotano e gli asini dormono in piedi? Che sia benvenuta la voglia di sapere e di conoscere la realtà che ci circonda, soprattutto quella che appartiene al regno animale, del quale pure noi uomini facciamo parte. Benvenuti anche coloro che studiano geroglifici e graffiti, che zappano qua e là alla ricerca dell'Arca di Noè o dei resti di Atlantide. Un sofferto e sospettoso benvenuto anche a tutti i paleontologi e antropologi che cercano risposte sulle origini della specie umana e sulla sua eventuale evoluzione biologica. Insalutati ospiti, invece, quelli che, con superba sicurezza, sanno tutto di Lucy, dell'Homo sapiens, dell'Homo erectus, e scrivono, parlano, spacciando per matematico oro colato presunte verità che, invece, sono solo pure e semplici teorie. Se lo studioso vatte la pesca si ritiene in grado di dire che Lucy si nutriva di cibi naturali, è un genio. Ha scoperto che a quei tempi non c'erano le contraffazioni alimentari. E se il non ricercatore nessuno sostenesse che l'Homo erectus altri non era che uno sfaticato riluttante all'idea di piegare la schiena per lavorare? Se poi tanti sono convinti di essere evoluti discendenti della scimmia, padroni di pensarlo, e peggio per loro. A me nessuno toglie dalla testa che l'uomo è stato da sempre dotato di intelligenza, nonché di una parte spirituale. A me, per giunta, darebbe oltremodo fastidio che mia figlia, mia diretta discendente in linea retta e di primo grado, andasse in giro dicendo a tutti che lei discende dalla scimmia. Aurelio. Caro Aurelio, la sua insofferenza verso la scienza e gli scienziati ha certamente qualche fondamento, soprattutto se questi scienziati hanno l'ambizione di proclamare verità assolute. Karl Popper, uno dei maggiori filosofi del Novecento, diceva che la scienza è di per sé fallibile perché può essere contraddetta dall'esperienza. Infatti, per quanto numerose possano essere le osservazioni sperimentali a favore di una teoria, non possono mai provarla definitivamente e basta anche solo una smentita sperimentale per confutarla. Quindi ha ragione a guardare la scienza con un certo distacco, ma senza dimenticare che proprio grazie alla scienza e agli scienziati l'umanità ha compiuto e continua a compiere enormi passi in avanti, proprio per conoscere meglio la realtà e usarla al servizio di ogni persona. Quanto alla teoria dell'evoluzione e alle scimmie, non deve preoccuparsi troppo. Ammesso che esista, per trovare il famoso anello di congiunzione tra l'uomo e la scimmia sarebbe necessario risalire per centinaia di milioni di anni. Sua figlia può stare tranquilla. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.